Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non starò a fare la storia delle mie battaglie al servizio dei prussiani, come l'ho già fatta per quelle al servizio degli inglesi. Feci il mio dovere quanto gli altri, o di più, e si può dire che quando i miei baffi raggiunsero una lunghezza decente, cioè sui 20 anni, non ci fosse in tutto l'esercito prussiano un soldato più coraggioso, intelligente, bello e, devo ammetterlo, perverso di me. Mi ero volutamente trasformato in un vero e proprio animale da combattimento. Nelle giornate di battaglia ero selvaggio e felice. Fuori del campo mi procuravo tutti i piaceri disponibili e quanto alla loro qualità o ai mezzi per ottenerli, non andavo tanto per il sottile. La verità, però, è che tra i nostri uomini c'era un tono sociale molto più elevato che tra quei goffi zoticoni dell'esercito inglese. E il nostro servizio era di solito tanto rigido che ci restava ben poco tempo per uscire dalla retta via. Io sono molto scuro di capelli e di carnagione, e i miei compagni mi chiamavano l'inglese nero, oppure il diavolo inglese. Se c'era da fare qualche servizio, potevo star certo che sarebbe toccato a me. Ottenevo spesso gratifiche in denaro, ma nessuna promozione. E il giorno dopo, quello in cui avevo ucciso il colonnello austriaco, un enorme ufficiale degli Ulani, che affrontai da solo e a piedi, il mio colonnello, generale Bulow, mi diede 2 federici d'oro davanti a tutto il reggimento e mi disse: «Ora ti do questa ricompensa, ma temo che un giorno o l'altro dovrò farti impiccare». Spesi quel denaro insieme a quello trovato sul corpo del colonnello. Lo spesi quella notte stessa, in allegra compagnia, fino all'ultimo centesimo, ma finché durò la guerra non mi trovai mai senza un tallero nella borsa. Dopo la guerra il nostro reggimento venne acquartierato nella capitale, la meno noiosa forse di tutte le città della Prussia, ma questo non significa certo che fosse allegra. Il nostro servizio, sempre duro, ci lasciava però ogni giorno molte ore libere in cui dedicarci a qualche svago, se potevamo pagarcelo. Molti soldati che venivano a mensa con me furono autorizzati a prendersi un mestiere, ma io, per educazione, non ne conoscevo nessuno, e poi il mio onore me l'avrebbe proibito, perché un gentiluomo non può sporcarsi le mani con un lavoro manuale. Ma la nostra paga bastava appena a non farci morire di fame, e siccome sono sempre stato molto amante dei piaceri, e d'altra parte la situazione in cui ci trovavamo ora nel cuore della capitale ci impediva di ricorrere a quegli espedienti per raccogliere qualche piccolo contributo che sono tanto facili da mettere in atto in tempo di guerra, fui costretto a fare uso del solo mezzo che mi rimaneva per provvedere alle mie spese. E così divenne il gentiluomo militare di fiducia del mio capitano. Avevo respinto questa stessa offerta 4 anni prima, quando mi era stata fatta mentre ero al servizio dell'Inghilterra, ma in un paese straniero uno si trova in una situazione ben diversa, e poi, a dir la verità, dopo 5 anni di truppa, l'orgoglio di un uomo si sottomette a mortificazioni che gli sarebbero riuscite inaccettabili in libertà. Il capitano era un giovanotto che si era distinto durante la guerra, altrimenti non sarebbe stato promosso tanto presto. E in più era nipote ed erede del ministro di polizia, Monsieur de Potsdorf, parentela che aveva certamente favorito la promozione di quel giovane gentiluomo. Il capitano de Potsdorf era un ufficiale molto severo nelle riviste e in caserma, ma era anche una persona che seguiva docilmente chi lo adulava. Mi conquistai la sua simpatia, prima di tutto per il mio modo di farmi il codino. I miei capelli erano davvero i più curati e pettinati del reggimento, ma poi mi guadagnai anche la sua fiducia, con mille piccole astuzie e complimenti che, essendo io stesso un gentiluomo, sapevo bene come impiegare. Era un uomo dedito ai piaceri e li perseguiva più apertamente della maggior parte dei gentiluomini della severa corte del re. Era generoso, anzi, non badava alla borsa e provava un amore schiettissimo per il vino del Reno. Entrambe inclinazioni che condividevo sinceramente e da cui, naturalmente, traevo il mio profitto. Nel reggimento era mal visto, perché gli si attribuiva un'eccessiva intimità con suo zio, il ministro di polizia. Si diceva che gli fornisse informazioni su ciò che accadeva in caserma. Ben presto entrai nelle grazie del mio capitano, al punto che conoscevo quasi tutti i suoi affari. Così mi vennero risparmiate molte esercitazioni e parate che altrimenti mi sarebbero toccate di sicuro, e ottenni un gran numero di gratifiche che mi permisero di fare una figura discretamente elegante e di presentarmi con un minimo di éclat in certi circoli, molto umili, devo ammetterlo, di Berlino. Ero sempre il beniamino delle signore. Con loro il mio modo di fare era tanto raffinato che non si capacitavano di come avessi potuto ottenere al reggimento quello spaventoso nomignolo di diavolo nero. «Non è poi così nero come lo si dipinge», dicevo ridendo, e la maggior parte delle signore erano d'accordo a riconoscere che il soldato era ben educato almeno quanto il capitano. Del resto, come avrebbe potuto essere altrimenti, considerate la mia educazione e la mia nascita? Quando me lo fui accattivato a sufficienza, chiesi al capitano di permettermi di scrivere una lettera alla mia povera madre in Irlanda. Non le avevo mandato mie notizie per moltissimi anni, perché le lettere dei soldati stranieri non venivano mai accettate alla posta, per paura di appelli o complicazioni da parte dei loro genitori all'estero. Il mio capitano acconsentì a trovare un modo per spedire la lettera e, sapendo che l'avrebbe aperta, ebbi cura di consegnargliela sigillata per mostrare che avevo fiducia in lui. Ma la lettera, come potrete immaginare, era scritta in modo da non danneggiarne l'autore in caso di intercettazione. Imploravo la mia onorata madre di perdonarmi per averla abbandonata. Dicevo di sapere bene che gli sperperi e le follie di cui mi ero macchiato nel mio paese mi rendevano impossibile il ritorno, ma che lei sarebbe stata almeno lieta di sentire che stavo bene, che ero felice al servizio del più grande monarca del mondo e che la vita del soldato mi riusciva più che gradita. Aggiungevo che avevo trovato un buon protettore e patrono da cui speravo di poter ricevere un giorno o l'altro quell'aiuto che lei non era certamente in grado di darmi. Le chiedevo di ricordarmi a tutte le ragazze di Castle Brady, citandole per nome, da Biddy giù fino a Becky, e mi firmavo, secondo verità, il suo affezionato figlio Redmond Berry, della compagnia del capitano Potsdorf di guarnigione a Berlino. Le raccontai anche una storiella sul re, che un giorno che ero di guardia a Potsdam aveva preso a calci giù per le scale il cancelliere e tre giudici, e dissi che speravo che venisse presto un'altra guerra in cui forse sarei stato promosso ufficiale. Insomma, avreste potuto credere che la mia lettera l'avesse scritta l'uomo più felice della terra, e quanto a questo non mi dispiaceva affatto di ingannare la mia buona madre. Fui ben presto certo che la mia lettera era stata letta, perché qualche giorno dopo il capitano Potsdorf cominciò a chiedermi della mia famiglia, e io gli raccontai come stavano le cose in modo sostanzialmente accurato, considerate le circostanze. Ero il cadetto di una buona famiglia, ma mia madre era quasi rovinata e aveva appena abbastanza per mantenere le sue 8 figlie, che nominai una ad una. Io avevo studiato legge a Dublino, dove mi ero indebitato e avevo cominciato a frequentare cattive compagnie. Avevo ucciso un uomo in duello e se fossi tornato in Irlanda, i suoi potenti amici mi avrebbero fatto imprigionare o impiccare. Mi ero arruolato nell'esercito inglese, ma lì mi si era presentata una irresistibile occasione di fuga e qui raccontai la storia di Mr. Fakenham di Fakenham in modo tale che il mio protettore non riusciva più a smettere di ridere. Mi disse poi che aveva ripetuto la storia a un ricevimento serale, dove tutti erano ansiosi di dare un'occhiata al giovane inglese. «Era presente anche l'ambasciatore inglese?» chiesi in tono molto allarmato, aggiungendo: «Per l'amor del cielo, signore, non gli dite il mio nome, perché potrebbe richiedere la mia consegna, e non ho la minima voglia di andarmi a fare impiccare nel mio caro paese natio». Potsdorf, ridendo, disse che avrebbe avuto cura di farmi rimanere dov'ero, e per questo gli giurai eterna gratitudine. Qualche giorno dopo, con un'espressione piuttosto seria, Potsdorf mi disse: «Redmond, ho parlato di te con il nostro colonnello, e dato che mi stupivo che un tipo con il tuo coraggio e le tue capacità non fosse stato promosso durante la guerra, il generale mi ha detto che in effetti ti avevano messo gli occhi addosso, che eri un soldato valoroso, ed era chiaro che venivi da una buona famiglia, che non c'era un uomo del reggimento che si fosse comportato in modo più inappuntabile, ma che nessun uomo meritava una promozione meno di te. Eri pigro, vizioso e senza principi. Hai avuto una pessima influenza sugli altri uomini. E lui era certo che, nonostante tutti i tuoi talenti e il tuo coraggio, saresti finito male». «Signore», dissi, stupefatto che un mortale avesse potuto farsi un'idea simile di me, «spero che il generale Bulow si sbagli riguardo al mio carattere. Mi sono trovato in cattiva compagnia, è vero, ma ho fatto solo ciò che hanno fatto tanti altri soldati e soprattutto non ho mai avuto prima d'ora un buon amico e protettore a cui mostrare che sono capace di fare di meglio. Il generale può anche dire che ormai sono un ragazzo corrotto e mandarmi all'inferno, ma state certo di questo. Per servire voi, all'inferno ci andrei volentieri». Notai che questo discorso era piaciuto molto al mio protettore. Siccome poi ero molto discreto e gli ero utile per mille faccende delicate, mi si affezionò sinceramente. 4 mesi dopo la lettera a mia madre, ricevetti in una busta indirizzata al capitano una risposta che fece nascere nella mia mente una forte nostalgia di casa e una malinconia che non so dire. Erano 5 anni che non vedevo la scrittura di quell'anima cara. Tutti i bei vecchi giorni, la luce del sole fresca e allegra sui campi verdi della vecchia Irlanda, l'amore di mia madre, mio zio, Phil Parcel e tutto quello che io avevo fatto e pensato. Mi tornò tutto mentre leggevo la lettera. E poi, rimasto solo, piansi su quel foglio come non avevo più fatto dal giorno che Nora mi aveva piantato in asso. Feci attenzione a non mostrare i miei sentimenti al reggimento e al mio capitano, ma quella notte, che dovevo andare a prendere il tè nel padiglione fuori della porta di Brandeburgo, insieme a Fräulein Lotchen, non trovai, non so perché, il coraggio di andare. Pregai di scusarmi e me ne andai a letto presto in caserma. Ormai ne entravo e uscivo quasi a mia discrezione, e trascorsi una lunga notte piangendo e ripensando alla mia cara Irlanda. L'indomani ero di umore migliore. Incassai una tratta da 10 guinee che mia madre mi aveva mandato insieme alla lettera e offrii un elegante festino ad alcuni amici. La lettera di quella poverina era tutta macchiata di lacrime, piena di cancellature e riscritture e buttata giù in modo incongruo e quasi delirante. Diceva di essere ben contenta che io militassi sotto un principe protestante, anche se temeva che egli non fosse sulla retta via. Questa retta via, diceva, lei aveva avuto la benedizione di trovarla con il reverendo Joshua Yowles, che ora la guidava. Diceva che quell'uomo era un calice prezioso, eletto, un dolce unguento, una preziosa scatola di nardo autentico, e continuava con moltissime altre frasi che non riuscivo a capire. Ma una cosa era chiara in mezzo a tutto questo gergo incomprensibile, ed era che quell'anima buona amava ancora suo figlio e pensava a lui e pregava giorno e notte per il suo scapestrato Redmond. Non è forse venuto in mente a molti disgraziati, durante una solitaria guardia notturna o nel dolore, nella malattia, nella prigionia, che in quello stesso momento molto probabilmente la loro madre stava pregando per loro. Quella notte bevvi alla salute di mia madre da un bicchiere ben colmo e continuai a vivere come un gentiluomo finché mi durò il denaro. Il denaro di quell'anima cara di mia madre lo finii molto presto, ma non mi ci volle molto per trovarne altro. Avevo 100 modi di procurarmene, da quando ero diventato il gran favorito del capitano e dei suoi amici. Una volta era Madame Fondose a darmi un federico d'oro per averle portato un mazzo di fiori o una lettera da parte del capitano. Un'altra volta, invece, era il vecchio membro del consiglio privato che mi offriva una bottiglia di vino del Reno e mi faceva scivolare in mano uno o due talleri perché gli fornissi qualche informazione sulla liaison tra sua moglie e il capitano. Ma per quanto non fossi così stupido da non accettare suo denaro, potete star certi che avevo abbastanza caro il mio onore da non tradire il mio benefattore. Da me, il consigliere, cavò ben poco. Quando il capitano e la signora ruppero i rapporti e lui cominciò a far la corte alla ricca figlia dell'ambasciatore d'Olanda, non so quante altre lettere e guinee mi passò la sfortunata Madame Tabaks Retin affinché le riportassi il suo amante. Ma questi ritorni di fiamma sono rari, e il capitano si limitava a ridere dei suoi sospiri stantii e delle sue suppliche. Nella casa dell'ambasciatore d'Olanda mi resi tanto gradito a padroni e servitù da diventare quasi un loro intimo, e così appresi un paio di segreti di Stato, graditissima sorpresa per il mio capitano. Lui riferiva queste mezze notizie a suo zio, il ministro di polizia, che certamente le usava a suo vantaggio. La famiglia Potsdorf cominciò quindi ad accogliermi in maniera molto confidenziale, e del soldato mi rimase solo il nome, perché ero autorizzato a vestire in borghese, cioè in abiti molto eleganti, ve l'assicuro, e a godermela in 100 modi diversi, per l'invidia dei miei poveri compagni d'armi. Quanto ai sergenti, mi trattavano con il rispetto dovuto a un ufficiale, ben sapendo che offendere una persona a cui prestava orecchio il nipote del ministro poteva costare loro i galloni. C'era nella mia compagnia un giovanotto di nome Kurt, alto 6 piedi, nonostante il suo nome. Una volta gli avevo salvato la vita in un'azione di guerra. E che cosa viene a dirmi questo ragazzo, dopo che gli avevo raccontato una delle mie avventure, se non che sono una spia, un informatore, e che non devo mai più dargli del tu, come fanno i giovanotti quando sono amici intimi? Non avevo altra scelta di chiedergli di accompagnarmi fuori. Però non ce l'avevo con lui. Lo disarmai in un batter d'occhio, e mentre gli facevo volare la spada sopra la testa, gli dissi: Kurt, hai mai conosciuto nessuno che sia colpevole di un'azione meschina e che si comporti come faccio ora io? Questo mise a tacere tutti gli altri brontoloni, e da allora nessuno mi trattò più con scherno. Ma